day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. See the world spinning round. Salve, signore e signori delle terre di Eutopia. Che ne dite questa sera di fare qualche breve e succinto accenno al disincanto e al reincanto del mondo? Per il momento mi sembra, purtroppo, ci troviamo ancora immersi in un'epoca di disincanto del mondo, una sorta di reificazione che riduce il reale al materiale, il materiale all'economico, l'economico al finanziario, che squalifica le dimensioni sensibili, poetiche, morali e spirituali dell'esistenza, che domina, struttura il legame sociale, che rende rapidamente obsolescenti saperi, prodotti, tecnologie, che iperspecializza competenze, che opprime e controlla gli individui, intrappolati in gabbie di ferro, paralizzati da pesanti e schiaccianti gerarchie piramidali, che limita l'umano ad un agente economico e degrada l'ambiente al rango di risorsa naturale. E questo disincanto ha potuto legittimarsi proprio grazie al crescente potere di una nuova alienante ragione, quella di mettere il mondo in equazioni, quantificare il reale, sottometterlo alla ferrea legge della statistica in una febbrile attività di mutilazione generalizzata. Complice un certo scientismo totalitario, una scienza senza coscienza che sembra non sospettare che possa esistere un altro modo di vedere la vita, la razionalità, la scienza, i valori. la notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai. Ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi ci disprezzate, come mai? Ma che colpa abbiamo noi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi? E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi, oh yeah, e se non la sapete voi, ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa abbiamo noi? Scriveva William Blake: se le porte della percezione fossero sgombrate, ogni cosa apparirebbe con me, infinita. Interroghiamoci allora: siamo ancora in grado, nonostante tutto, di spalancare quelle porte? In quest'epoca di rottura saremo saldi nell'abbandonare un ciclo e penetrare in un altro? Riusciremo a superare la frammentazione e la separazione derivante dal meccanicismo-riduzionismo e ridare la giusta attenzione all'intero, alla globalità? Saremo capaci di conciliare e integrare riduzionismo e olismo? Passare dalla società degli oggetti e della consumazione alla società della conoscenza e dell'informazione, da un'economia industriale a un'economia immateriale, dal potere del denaro al prestigio del talento? E reincantare il mondo? Riscoprire nell'aria dei tempi il seme autentico dell'anarchia? Sembra di sì, anzi qualcosa già sta accadendo attraverso quella che potremmo definire la rivoluzione noetica. Da tempo preannunciata da Bergson, Einstein, Heisenberg e descritta da Morin, Prigogine, Capra e quanti altri. La parola deriva dalla radice greca nous, che significa conoscenza, intelligenza, spirito. In breve, è lo studio della conoscenza che approfondisce la dinamica e i cicli delle idee e delle teorie. Ma la noetica è molto di più che un campo di studio e di ricerca. È una rivoluzione di fondo, paradigmatica, al centro degli stravolgimenti della nostra epoca. Essa prona l'emergenza di un nuovo umanesimo, pone l'accento sul mettere in discussione l'autorità, sul pensiero indipendente, sulla creatività individuale. E i cosiddetti creativi culturali o creatori di cultura ne sono gli interpreti, che cercano di liberarsi dagli emblemi e dai modelli meccanicisti per entrare nell'era di un pensiero creativo, operando per l'autonomia sociale, la solidarietà, una spiritualità libera, la realizzazione di se stessi, la coscienza sociale, il rispetto attivo della natura. Un movimento non movimento che, pur sembrando di fatto un discendente delle numerose correnti degli anni Sessanta, si prospetta più come una tendenza di fondo che una moda passeggera, una metamorfosi piuttosto, una rivoluzione epistemologica o ancora una sperimentazione multipla, più o meno rischiosa, effimera o riuscita, ma che comunque abbatte barriere. Sotto una montagna di paure e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni troverete tanta luce e tanto amore. Il mondo mai sta cambiando e cambierà di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più. Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu e la pioggia che va e ritorna il sereno. Pioggia che va e ritorna. Non importa se qualcuno sul cammino della vita sarà preda dei fantasmi del passato. Il denaro e il potere sono trappole mortali che per tanto e tanto tempo hanno funzionato. Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più in giù, ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro, di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno e la pioggia che va e ritorna il sereno, yeah, e la pioggia che va. E per concludere, giusto per iniziare a reincantare il mondo, dandovi appuntamento alla prossima, vi saluto con la vibrante esortazione di Ursula Le Guin, scrittrice statunitense di fantascienza, tratta dal romanzo L'espropriato del 1974. Non abbiamo nulla se non la nostra libertà. Non abbiamo nulla da darvi se non la vostra libertà. Non abbiamo legge se non il singolo principio del mutuo appoggio tra individui. Non abbiamo governo se non il singolo principio della libera associazione. Non abbiamo Stato. Non abbiamo nazione, non abbiamo presidenti, dirigenti, capi, generali, padroni, banchieri, signori. Non abbiamo salari, non abbiamo elemosine, non abbiamo polizie, non abbiamo soldati, non abbiamo guerre. Nessuno di noi è ricco, nessuno di noi è potente. E se volete voltarvi verso il futuro, allora vi dico che dovete andare verso di lui le mani vuote, soli e nudi, come il bimbo che viene alla luce e che entra nel suo proprio futuro, senza passato, senza nulla possedere e la cui vita dipende interamente dagli altri. Voi non potete prendere ciò che non avete dato, siete voi che dovete dare. Non potete comprare la rivoluzione. Non potete fare la rivoluzione, potete solo essere la rivoluzione. È nel vostro spirito o non è in alcun modo.